Allora, oggi vedete, mi dilungo un minuto per presentarvi il programma. Io oggi vi parlerò abbastanza brevemente di quello che è, come nasce il progetto Futopia e come è legato allo sportello ascolto nutrizionale, per focalizzarmi poi su quello che sono i risultati del primo anno e mezzo dello sportello ascolto nutrizionale. Poi ci sarà il professor Corrado, che è Corrado Pasquali, ce lo siamo dimenticati il cognome, che economista dell'Università di Teramo, che vedete come il suo imprinting romano lo porta a definire un titolo con poco se campa, con niente se more. Quindi parleremo come è cambiato e perché fondamentalmente il costo del cibo in Italia negli ultimi 50 anni. Poi abbiamo il prof Pipitone, altro chef magistrale, però oggi è nella sua veste accademica, che ci parla del mukbang, parola che io non conoscevo, che è praticamente il mukbang perché guardiamo gli altri mangiare, tra voyeurismo e connessione sociale. Mukbang, non so se vi ricordate, Men's versus Food, quelle persone che lì, in quel caso c'era questo signore che andava nei ristoranti di qualsiasi tipo degli Stati Uniti e mangiava, doveva mangiare X alimenti impressionanti, alta densità calorica in tot tempo. E da lì poi abbiamo una serie di online, su Facebook, su Instagram, dirette di persone che mangiano tanto e noi guardiamo. Per cui ci chiediamo perché noi li guardiamo. Qual è la deriva mentale che ci porta a vedere gente che si sfonda di cibo, che poi non è proprio, no, il massimo della salute. Allora, torniamo a noi. Ripeto, inizio con il motto dello sportello, che fa capire subito qual è il nostro approccio: affinché di cibo si goda e non si soffra. L'avete visto oggi, lo vedete se siete venuti a Futopia. Ogni volta che facciamo Futopia al Forte c'è del cibo. C'è del cibo buono, materie prime eccezionali, persone che lo cucinano in maniera altrettanto valente, e quindi poi si arriva al prodotto finito. Questo per dire cosa? Non deve essere una restrizione, la nutrizione non deve essere vista come una restrizione, ma deve essere vista come, o perlomeno ci si deve provare, come un approccio che ci permetta di godere e quindi non perdere il gusto del cibo, ma allo stesso modo mantenere il benessere e esercitare un'azione preventiva. Oggi parliamo appunto di, faremo un po' di esempi e vi presenterò il primo report dell'anno e mezzo di sportello d'ascolto nutrizionale al Quarticciolo, a Via Ogento, gratuito, ogni martedì dalle 18 alle 20. Facciamo una breve premessa, no? Allora, viviamo nel 2024 in un mondo dove si parla sempre di cibo. Appena accendiamo la televisione, chiunque parla di cibo, dagli chef ai blogger, agli scienziati, ai nutrizionisti, agli immunologi, che non sanno niente di cibo ma parlano di cibo. E poi abbiamo delle parole chiavi, no? Che cosa ci attrae? Vedete, la più gettonata è antiossidanti. L'antiossidante ci intriga, ci fa mandare fuori di testa perché sappiamo che è legato all'invecchiamento, non vogliamo invecchiare, però senza fare spoiler moriremo tutti, indipendentemente dagli antiossidanti. Non so perché è viva, siamo sempre vive le mie presentazioni. Ossidazione, proteggere, salute, radicali, molecole, frutta, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo delle parole chiave, abbiamo dei superfood, il mito del superfood che non funziona mai, tanti, tanti messaggi legati al cibo. Il 90% di questi messaggi è poco corretto, però noi purtroppo poi non abbiamo molto su cui difenderci. Per questo nasce il progetto Futopia. Futopia vuol dire la conoscenza, cioè un approccio che sia scientifico, per cui noi qui dimostriamo che possiamo fare le presentazioni al grande pubblico. Mi è scaricata la batteria. Sì. E possiamo fare le presentazioni al grande pubblico e introdurre concetti scientifici. Il grande pubblico ci capisce, perché poi è semplice, la scienza è semplice se la rendiamo semplice, e questo ci fornisce un'arma fondamentale di conoscenza che ci permetterà poi di ragionare, di ragionare quando andiamo a fare spesa, quando utilizzeremo i nostri soldi per comprare determinati alimenti, eccetera, eccetera. Quindi mettiamo un po', partiamo dall'inizio o dalla fine forse. Queste sono le patologie d'eccesso di cibo, cioè che cosa succede? Negli ultimi 50 anni noi abbiamo un aumento esponenziale di tutte le patologie metaboliche: malattie cardiovascolari, sindrome metabolica, diabete, alcuni tipi di cancro e anche obesità. Il dato che è importante sono i DELIS, sono gli anni di vita che noi perdiamo per la disabilità associata alla patologia. Cioè nel momento in cui noi veniamo diagnosticati diabetici, sindrome metabolica, noi iniziamo un percorso al minimo farmacologico e questo percorso peggiorerà. Quindi è chiaro che noi rimaniamo in vita. La vita media della popolazione italiana è aumentata. Ma è aumentata perché? Perché c'è un approccio sanitario, farmacologico, che ci porta a vivere di più. Però poi ci dovremmo chiedere qual è la qualità della vita che noi viviamo, no? Per cui, da un punto di vista del malattie metaboliche, noi siamo messi malissimo. Negli ultimi 50 anni c'è un aumento esponenziale, in più o meno in tutto il mondo occidentale e anche chiaramente in Italia. L'obesità, 1.3 miliardi di obesi e sovrappeso, 12.5 bambini, i nostri bambini sono al top europeo per obesità. L'obesità ha anche un impatto ambientale, perché questo è un marcatore che abbiamo messo a punto noi, che si chiama spreco alimentare metabolico. Che vuol dire? È un concetto banale, semplice. Siamo obesi, siamo sovrappeso, quel grasso in eccesso, che cosa vuol dire? Che noi abbiamo mangiato più di quello di cui necessitiamo. Per cui quel grasso in eccesso aumenta il rischio di malattie metaboliche, ma allo stesso tempo, siccome noi abbiamo sprecato del cibo, non l'abbiamo buttato, l'abbiamo incamerato, è la stessa cosa. E quel cibo poi ha un costo ecologico in termini di CO2, acqua e terreno. E se noi facciamo, come abbiamo fatto noi, uno studio dove andiamo a vedere quali sono le quantità in termini proprio di chilaggio di cibo associato all'obesità, solo al grasso in eccesso, abbiamo che per la popolazione italiana, per gli obesi e sovrappeso, abbiamo circa 2.081 milioni di chilogrammi di cibo sprecati. Nel mondo ce ne abbiamo circa 141 milioni di tonnellate, che è nettamente superiore a un terzo del cibo sprecato per food waste, no? Per spreco alimentare classico. Allora, no, è la fotografia del momento. No, che aggiorno, no. È la fotografia del momento, cioè i dati presi in quel momento e fatta la valutazione. Allora, andiamo a capire qualcosa, no? Che cosa succede? Perché noi, quali sono le variabili alimentari che ci portano a questo baratro patologico? Allora, innanzitutto osserviamo una cosa, questo è sempre lo stesso lavoro, che ci dice come, no? Vedete come a noi scienziati piace fare la classifica, no? Per cui in cima a tutti i fattori di rischio c'è una dieta alta in sodio. Poi vedete, in rosso abbiamo sotto una dieta alta in acidi grassi trans, una dieta alta in bevande zuccherine, una dieta alta in carne processata, una dieta alta in carne rossa. Attenzione, questa è una classifica, ma pensiamoci un attimo, queste 4-5 variabili sono legate da di loro? Il sale dove lo troviamo? Nella carne? Quindi è chiaro che quello è un pattern di comportamento. I 5, a noi non serve fare una classifica, per la popolazione i 5 stanno allo stesso livello, perché chi ne ha uno ne ha spesso anche gli altri 4. E non solo, se noi andiamo a vedere gli altri componenti della classifica, una dieta bassa in cereali integrali, frutta, nuts, quindi frutta secca, semi, verdura, omega 3, acidi grassi, fibra, acidi grassi polinsaturi e legumi, è la stessa cosa. Chi si trova nel consumare tanti alimenti in rosso non si trova nel consumare alti alimenti in verde, ma sarà basso in verde. È un pattern comportamentale che ci porta a quello che è l'outcome, il risultato. Allora, andiamo a vedere quali sono i consumi italiani con la ricerca appena pubblicata del Little Sky, cioè una sorta di sondaggio, in qualche modo, di censimento dei consumi degli italiani, e noi ci troviamo che la situazione è molto chiara. Noi mangiamo più di quello che non dovremmo mangiare, carne rossa processata, e meno di tutto quello che dovremmo mangiare, frutta, verdura, legumi e cereali integrali, che non sono qua ma ci sono. Cioè, fondamentalmente, il discorso qual è? Noi sappiamo esattamente quello che dobbiamo fare. Tutti noi lo sappiamo, ci hanno fatto una capoccia così. 5 porzioni di frutta e verdura, cereali integrali, proteine vegetali e non animali, non prodotti processati. Ma noi non lo facciamo. Noi facciamo l'opposto. Noi mangiamo pochissima frutta, pochissima verdura, pochissimi cereali integrali, noi mangiamo tanta carne e tanti prodotti processati. Di fondo perché? Ma non è solo questo il motivo, ce ne sono tanti. Uno, perché ci piace mangiare, l'edonismo, la convivialità, ci sono problemi legati all'income, al guadagno personale, no? Ormai è chiaro, gli dati parlano chiaro, chi guadagna meno muore di più di malattie metaboliche, e questo ha un, diciamo, un ventaglio di problematiche enormi. Pasquali ci ha parlato l'ultima volta di Foodopia, che deve essere food, quelle aree del mondo dove noi, per poter prendere, per poter comprare un cibo che sia sano, nutrizionalmente valido, funzionalmente e significativo, dobbiamo fare almeno un chilometro e mezzo. Tutte queste... Sì. Carne rossa e processata. Le salumi. La processata sui salumi. Insaccati. Acidi grassi trans, tipo burro, tutti quelli che stanno nei processati, fondamentalmente. Sì. Quindi noi abbiamo una serie di variabili che inficiano quel dato, no? Ripeto, il guadagno, l'income personale, cioè molto spesso chi ha meno soldi sicuramente muore di più, questo è un dato di fatto, ma questo può essere dovuto, no, a problemi legati al sistema sanitario. Ma a livello nutrizionale abbiamo sicuramente persone che guadagnano meno che hanno problematiche metaboliche maggiori. Questo può essere dovuto al desert food, al fatto che non arrivano, non vicino a loro c'è solo, ci sono solo posti dove vendono cibi che non sono sani. A un discorso culturale, a un discorso di conoscenza, per questo facciamo questo tipo di progetti. Le variabili sono tante, non vogliamo analizzarle, però esistono questi problemi, sono gravi e sono importanti. Noi nel corso di Foodopia abbiamo visto tante cose, abbiamo parlato di sistema immunitario, abbiamo parlato di longevità, cioè noi ci proviamo, no? Proviamo a dare un'informazione che sia basata solo e esclusivamente sulla scienza. Non è perché viene Pasquali, viene Pipitone, viene Serafini, vi dovete fidare, non vi dovete fidare di nessuno, dovete fidarvi dei numeri, dei dati, e dovete capire quei dati, perché quella è la vostra forza, perché voi poi da lì aumenterete la vostra conoscenza e, ripeto, andare a fare la spesa diventa un atto politico, è un atto politico di cui vi difendete e comunque siete soggetti attivi. Allora, Foodopia inizia 2 anni fa più o meno, no, quasi 3. Poldino, quanti sono? Quasi 3. 3 anni? 3 anni. Allora, abbiamo affrontato diversi argomenti e Foodopia è un progetto di comunicazione doppio, fondamentalmente. Abbiamo una parte pratica, che è quella che si svolge al Forte Prenestino, col pranzo, la cena, a volte il teatro come l'ultima volta, la musica come i Cyclone, no? E tante altre cose, e poi una parte invece che si svolge esclusivamente su Radio Onda Rossa. Tutti i podcast li trovate su Radio Onda Rossa, li trovate sulla pagina Facebook di Rock the Food. Allora, che cosa abbiamo trattato? Abbiamo parlato di cioccolato e prevenzione cardiovascolare, abbiamo parlato degli insetti edibili, abbiamo parlato degli antiossidanti del superfood. Vedete come ogni seminario ha un punto interrogativo, perché quello è l'obiettivo, cioè noi andiamo a porre una domanda e a dare una risposta durante il seminario. Fake news in nutrizione, longevità, come conservare gli alimenti, Foodopia e prevenzione sul territorio, le etichette nutrizionali, per cui vedete come si spazia da aspetti pratici come le etichette, aspetti più teorici come la longevità, perdonatemi, oppure abbiamo parlato del Nutri-Score, questa battaglia che forse voi non conoscete ma che è clamorosa, dove il Ministero della Sovranità Alimentare e tutto il governo italiano combatte il Nutri-Score a favore del nulla. La sovranità alimentare, abbiamo in qualche modo, quella l'abbiamo fatta su Radio Onda Rossa, abbiamo sottolineato come la sovranità alimentare venga dai campesinos, dai contadini, e il concetto è stato cambiato totalmente nel momento in cui la fauna ha preso possesso e adesso abbiamo un Ministero della Sovranità Alimentare. Abbiamo parlato della cucina italiana come possibile, no? Patrimonio dell'UNESCO, cibi processati, la mindfulness, l'approccio mentale al cibo, la menopausa e la nutrizione, l'immunonutrizione, la prostata e la nutrizione, no? Per gender equality in qualche modo, le diete, quella delle diete è stata fantastica, 1 e 2, sentitela, è meravigliosa, la mistificazione del cibo contadino, cioè tutto quell'approccio che ci fanno vedere, no? Vieni qua che c'è il cibo contadino e noi andiamo a fare aperitivo al centro di Roma perché quello è il cibo contadino, poi se entriamo in una stalla scappiamo perché c'è la puzza, quello è il cibo contadino. Le cucine del riuso, i desert food con Pasquali, gli elisir erboristici grazie a Officine Naturali e la collaborazione con loro. Tutto questo è il programma di comunicazione del Forte Prenestino, Foodopia. Poi c'è il braccio armato, Il braccio armato è questo, è lo sportello d'ascolto nutrizionale. A via Ugento, al quarticciolo, sane, affinché di cibo si gode e non si soffra, quella è l'email. Qui è la cena che abbiamo fatto pre-estiva, la ragazza è rock and roll, appena gli abbiamo fatto il segno rock and roll è impazzita, e ringraziamo tutti loro che sono lì, Raffaella Bravi, Ilenia e tutti gli altri praticamente, Silvia Lisciani, io e quindi insomma 5 persone che sono dei pazzi, vanno gratuitamente lì allo sportello, ma ci credono e seguono un approccio particolare. Qual è l'approccio? L'approccio è: uno, nessuna dieta, noi non diamo diete, non le diamo perché non ci crediamo. Perché non ci crediamo? Perché la dieta voi la seguite, pesate ogni cosa per un mese, ve la ricordate dopo il mese? La volete seguire dopo il mese? No, non la volete seguire, l'abbandonate, ve la dimenticate. E invece noi diamo suggerimenti nutrizionali sui gruppi alimentari. Questo è il gruppo alimentare, mangia più di questo, meno di questo, in un'ottica di cordialità nutrizionale. Il nostro approccio non deve essere restrittivo, non deve essere in qualche modo diseducativo, deve portare alla persona ad accrescere la sua conoscenza e ad avere coscienza del suo rapporto con l'alimentazione, e quindi capire quello che sta facendo e come lo sta facendo. E siamo pronti, e vedrete degli esempi, a mantenere quella cosa che la persona non vuole rinunciare, perché se noi gliela togliessimo non farebbe mai nulla. Facciamo qualche esempio prima di vedere il report. Il giaccometro, storico, questo ormai è storico, io tutti i convegni lo presento. Allora, giaccometro, Francesco, tanto non lo conoscete. No, che mi chiamano? Dio mio, mazza, che devo fare? Aspettate, ho capito però. Vabbè, allora, il caso è giaccometro, Francesco, 75 anni. Lui è una persona che è un edonista del cibo, cucina, gli piace mangiare bene, beve, quindi alimentazione ricca in grassi saturi, cibi molto elaborati, senza cereali, scarsi in legumi, consumo abbondante di vini insaccati. È il nostro uomo. Lui viene allo sportello non per questo, non perché è un po' sovrappeso, obeso, ma perché ha un problema con le giacche. Non vuole spendere altri soldi per cambiare le sue giacche, perché ormai non gli entrano più. Quindi è proprio la praticità dell'approccio, ok? Ok, allora che gli diciamo? Lì una lista infinita, perché è vero gruppi nutrizionali, però insomma una lista infinita. Metti i cereali integrali, scegli pane integrale, ok, aumenta il consumo di legumi, sospendere il consumo di insaccati, prosciutto, mortadella, salsiccia e porchetta, perché quello era quello che mangia. Diminuire il consumo di carne, sostituire la carne con altre fonti proteiche, consumare formaggio massimo 2 volte a settimana, o il condimento olio extravergine d'oliva, il burro a un uso saltuario, spuntini, mix di frutta fresca, stagione, secca, yogurt magro, yogurt greco, 0%, senza zucchero, consumare sempre un piccolo pasto completo, no? Il famoso piatto di Harvard, fonte di proteine, pesce, legumi, uova, carne bianca, formaggio, carboidrati, pane integrale, porzioni di verdura. Scegliere preparazioni semplici e leggere. In tutto questo non c'è una cosa, perché non la potevamo scrivere, perché non è che gli abbiamo consigliata, l'abbiamo mantenuta. Qual è la cosa che a lui piace? Consumo abbondante di cosa? Vino e insaccati. Gli insaccati che fine fanno? Scompaiono. Il vino? Rimane. Il vino rimane. A Francesco gli abbiamo detto: Francesco, continua a bere il vino che vuoi. Cosa che nessun nutrizionista farà mai. Però? Ok, vabbè, i miracoli non si fanno fa, cioè voglio dire, a bacchetta magica, Quindi gli manteniamo il vino, non c'è controllo, fa quello che vuole, nessun problema, perché se noi gli avessimo tolto non avrebbe fatto niente. Lui torna dopo 2 mesi, doveva tornare dopo 3, ma torna dopo 2 mesi. Allora io faccio vedere come è andata a finire dopo 6 mesi. Allora, Francesco è sceso di 3 punti di BMI, cioè lui era 26-26, per cui al limite dell'obesità, e diventa normopeso. La circonferenza peso vita scende di 10 cm, 9. Pressione sanguigna l'abbiamo misurato perché era ansioso. L'adeguatezza nutrizionale, che vuol dire? Sono 10 domande che ci dicono quanto siamo aderenti alle raccomandazioni nutrizionali, passa da 5 a 10, la prende, le prende tutti. Il livello di attività fisica aumenta da alto a moderato, la massa grassa scende del 5%, che non è poco. Quindi progressi ottimi, diminuzione di circonferenze, vita addominale, BMI elimina la normalità, adeguatezza nutrizionale massima. Lui, ma non è solo questo, questa è la parte scientifica, i numeri. Lui torna e è contento. Lui è contento perché a casa cucina lui, il figlio, la moglie seguono gli stessi passi che cucina lui e lui ci dice: io ho capito che posso mangiare bene, godere di cibo, utilizzando anche alimenti che sono salutari. Per cui adesso si lamenta un po' perché le giacche è sempre un problema perché sono troppo larghe, però questo gli abbiamo detto non è un problema nostro. Ok, eh sì. Ok, sindrome metabolica. La sindrome metabolica è una malattia che non esiste, no? Cioè nel senso che ce la siamo un po' inventata, perché? Perché ci sono una serie di fattori di rischio, dalla pressione, trigliceridi, colesterolo, insulinemia, glicemia, eccetera, che sono comuni a tutte le patologie, tutti. Per cui basta avere tre di questi parametri e quella è la sindrome metabolica. Per cui abbiamo il nostro secondo paziente dell'ambulatorio che ha una sospetta sindrome metabolica, è sovrappeso, ha una circonferenza vita molto ampia, ha una adeguatezza nutrizionale molto bassa, un livello di attività fisica molto bassa, la massa grassa molto alta. Gli consigliamo sempre cereali integrali, frutta fresca, vedete, poi i suggerimenti sono sempre gli stessi, non si scappa, cioè quelli sono. Ci mettiamo un po' di crononutrizione, ci mettiamo un po' di riduzione dello stress prosprandiale e lui dopo 3 mesi torna, scende di BMI a 2,61, 7 cm di circonferenza vita, l'adeguatezza nutrizionale sale, era 5, arriva a 8, e scende di 3,59 di massa grassa. Per cui abbiamo la perdita di peso è di 7,7 kg, quello è l'indice massa corporea. Per cui lui segue quello che gli diciamo e ottiene i primi risultati, in una sorta di remissione della sindrome metabolica, perché lui non ce l'ha più la sindrome metabolica. Paziente 1. Un fenomeno, lui è spettacolare. Allora, caso dei dolci, fortissimamente dolci. Allora, lui, praticamente abbiamo scoperto che aveva il diabete, non lo sapeva lui, non lo sapevamo noi, poi l'abbiamo scoperto. Allora, lui, no vabbè, però è semplice, insomma, dai. Allora, lui, craving totale. A ruota dei zuccheri semplici, poi non neanche carboidrati. Allora noi gli diamo, cioè il consiglio principale è riduci il consumo dei dolci, non c'era altro da dire, evita la colazione, aumenta però anche il consumo di verdura, eccetera eccetera, e il dolce della sera sostituito con la cioccolata fondente. Cioè il focus è cerchiamo di cambiare il suo approccio con i dolci, ma l'approccio dei dolci è mentale, difficile cambiarlo. Per cui lui fa tutto quello che gli diciamo noi, tutto. E viene a Foodopia, è un fan di Foodopia e ottiene dei risultati, perché l'indice massa corporea scende di 5 punti, tanti, la circonferenza vita di 20 cm, tanta roba, la massa grassa scende di quasi 8%, però i dolci non scendono, lui non ce la fa proprio, lui rimane diabetico, scende, guardate, peso meno 17,8 kg, tanta roba. La circonferenza di 8 cm, circonferenza fianchi meno 10, migliorato il quadro per la glicata e il colesterolo, però non ce la fa, noi ormai l'abbiamo dimesso perché non possiamo fare niente, nel senso che lui è in cura, ma lui con i dolci non c'è niente da fare, lì è un discorso che deve essere affrontato a livello mentale, a livello psicologico, però lui tutto il resto l'ha fatto, e è sceso di peso, ha migliorato i parametri metabolici, però il consumo, il craving di dolci non riesce a superarlo. Dottor House, caso Dottor House, questo è veramente insolito. Allora, non ho cancellato il nome, Sandro, ci sei? C'è la miseria, pensavo, vabbè, ce l'abbiamo qua, abbiamo fatto la carambata, va bene. Allora, Sandro viene da noi, che si trova sottopeso, ha una circonferenza vita, vedete, molto bassa, un'adeguatezza nutrizionale scarsa, la massa grassa sufficiente. Ma soprattutto che cosa ha? Ha una reazione anomala caratterizzata dall'ingestione di cibo. Brividi, nausea, vomito e perdita di peso. Alimentazione scarsa, con assenza totale di proteine, fa tutti gli esami medici del mondo, giusto? Qualsiasi cosa. L'unica patologia che può spiegare questo, forse la pancreatite, ma non c'aveva nessun parametro alterato. Ok, che facciamo con Sandro? Dottor House, ci inventiamo qualcosa. Ci inventiamo qualcosa e che gli diciamo? Gli diciamo che deve aumentare il consumo di proteine, deve ritornare ad avere un approccio col cibo. È un po' come succede con Boris Marmella, non so chi di voi l'ha visto. Noi gli diciamo frulla, frulla tutto. Frulla tutto perché frullare tutto vuol dire che il transito intestinale è più veloce e quindi vediamo se quel problema passa. È chiaro che questo non può reggere. È un cavallo di Troia, no? Ma funziona. Funziona, ma funziona molto bene. Sandro si fida di noi. E Sandro torna da noi, che è normopeso, riprende 12 cm di circonferenza vita, riprende quanti chili? 25. La massa grassa ritorna normale, l'adeguatezza nutrizionale ritorna intermedia. Il click mentale che dava tutti questi problemi è saltato. Si fida di noi, va e riprende tutto. E ho capito, devi fare attività fisica, vedi, c'è scritto. Allora, chiudo con i dati principali dello sportello. Allora, noi abbiamo analizzato i dati a due livelli. Il primo è quello del chi viene da noi, che problemi ha, no? Innanzitutto, chi viene da noi necessita un commento. All'inizio sono venute tantissime persone nel quartisciolo, famiglie, spinte dalle persone che stavano lì all'ambulatorio popolare, eccetera. Tutte queste persone non sono mai tornate. Era chiaro che non sarebbero mai tornate. Sono state spinte a venire, ma non gliene fregava niente lo sportello d'ascolto nutrizionale. Ok? Quindi i primi 3-4 mesi queste persone non sono tornate, abbiamo chiamato, zero. Adesso no. Adesso arrivano persone che sono altamente motivate, vogliono capire che cosa hanno, se stanno bene e tornano tutti, tutti. La percentuale di seconde visite, terze, quarte, fino a che ce n'è bisogno, si è alzata in maniera esponenziale. Noi in un anno e mezzo abbiamo analizzato circa 100 persone, un 40% uomini, 60% donne, meno di 18 anni pochissimi, perché devono essere portati dalle famiglie e non vengono, 18-30 anche molto pochi, vedete la fascia principale è quella 31-59 e maggiori di 59. Notiamo come ci sia una percentuale di persone che viene con patologie che sono già curate dal sistema sanitario e tutti denunciano la stessa cosa, una scarsa attenzione alle loro problematiche. Vanno lì, le interviste sono brevissime, gli danno gli opuscoli per la parte nutrizionale, non li seguono e vengono da noi. Perché? Perché sperano che ci sia, no, un dialogo, e noi il dialogo glielo diamo, noi siamo 40 minuti, un'ora a parlare con loro e quindi questo è già un aspetto importante. Poi, l'adeguatezza nutrizionale. Il 27% delle persone che viene da noi ha un'adeguatezza nutrizionale scarsa, 58% parziale. Solo il 16% è buona, che rientra in quel discorso di prima. Poca frutta e verdura, pochi cereali, pochi legumi e tanto altro, no? Questo è il problema reale, non seguiamo le raccomandazioni. Per quanto riguarda il BMI, abbiamo nelle donne 27.1, per cui siamo in uno stato di sovrappeso, e lo stesso anche negli uomini. Poi, questa è la percentuale, il 5% è sottopeso, il 32% è normopeso, 34% è sovrappeso e il 29% è obeso. Cioè questo è quello che vede ogni nutrizionista ogni giorno. In termini di attività fisica, il 50% della gente che è venuta si trova a un livello minimo, inferiore alla media dell'attività fisica, per cui noi mangiamo tanto e non ci muoviamo. Quello è uno dei punti classici. Poi, circonferenza vita, stessa storia, più del 94 il 29%, più di 102 il 47%, vita fianchi 25-44. Sì. Poi, per quanto riguarda la massa grassa, vedete, normale siamo in pochi, accettabile anche, elevata è molto elevata perché chiaramente rientra sempre al discorso dell'obesità. Il secondo step di analisi dei dati dello sportello è quello del nostro intervento. Noi abbiamo suggerito più o meno sempre le stesse cose. Aumenta frutta, verdura, legumi, mangia poco la sera, aggiungi mangia sempre la tua frutta e verdura durante i pasti, in un'ottica di riduzione del stress postprandiale. Allora, i risultati sono stati questi. Allora, se noi consideriamo i marcatori clinici che non erano fisiologici, no? Quelli che erano alterati, clinici, nutrizionali e metabolici, noi abbiamo che in conseguenza del nostro intervento il 64% dei marcatori è migliorato. E qui ci sono anche le persone che sono venute 2-3 volte ma che non hanno seguito quello che gli diciamo noi, perché anche quelle ci sono. Se noi facessimo solo il calcolo delle persone che hanno seguito quello che gli diciamo noi, abbiamo una media dell'85%, ok? Che sono circa il 76.4% dei soggetti, che non è proprio male, ok? Per cui l'approccio dello sportello è un approccio completamente innovativo, o forse vecchio, perché non vogliamo dare nessun tipo di dieta, vogliamo essere cordiali da un punto di vista nutrizionale, vogliamo fare in modo che la gente si fidi del nutrizionista, che entri in un ambiente che è un ambiente casalingo, che non sia ospedalizzato, che non si senta un malato quando entra dentro e che trovi delle persone che perdono del tempo con loro. Poi è chiaro, è evidente che dipende dalle problematiche, alcune si risolveranno, altre no, ma è altresì evidente che posti del genere sono fondamentali. Noi adesso ne apriremo altri 2, uno a Teramo e uno a Ostiense, in un'ottica delle case del cibo, quindi qualcosa di un po' diverso per l'osservatorio contro la povertà alimentare. E quindi l'ottica è proprio questo: aumentarli, fare in modo che ci siano dappertutto e tutti con gli stessi metodi, in maniera tale da avere una banca dati che sia fondamentale, che sia utile per mappare i quartieri di Roma, ma non solo Roma, e vedere i rapporti tra alimentazione, income, stato sociale e tante altre cose, e poi vedere come certi approcci possano migliorare la situazione. Questo lo risparmio. Grazie.